La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi, 39 secondi in diretta da Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast Oscar Giannino e vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it. Vi rimanda Focus Economia con Sebastiano Barisoni dopo per fare il punto sulle comunicazioni al mercato del presidente della Consob Vegas, arrivato alla fine del suo lungo e discusso mandato. In alcuni passaggi avrei diverse critiche, ma insomma delego a lui, perché ho deciso invece oggi di dedicare la puntata a una novità di un certo impatto, uscito fuori grazie a dei bravi colleghi che hanno dato una lettura inedita dell'impatto di una misura che già su questi microfoni avete sentito criticare molto. Stiamo parlando del decreto con la manovrina, il decreto legge 50, del cambio di passo che esso registra su molti temi nei confronti del prelievo fiscale e degli incentivi alle imprese. È finita la grande stagione, insomma, dei pur pingui, va riconosciuto, incentivi dati alle imprese dal governo Renzi nei suoi primi anni, perché dei 50 miliardi di bonus a tempo complessivamente, elencando tutte le voci e mettendole insieme come somma, beh, insomma, una ventina buona di questi miliardi sono andati alle imprese, cominciando innanzitutto con la grande decontribuzione ai contratti a tutele crescenti, piena per tranne al 2015 e poi diminuita al 40% per soli due anni nel 2016, nel 2017 resta solo per il Sud, e poi devo dire anche altre, tante altre misure, perché l'aliquota IRES si è scesa dal 27 al 24,5%, perché è stata abbattuta la componente lavoro dell'IRAP, perché sono state rifinanziate leggi come la Sabatini e perché nel 2017 sono arrivati anche al superammortamento, quindi incentivi per gli investimenti delle imprese nel 2016, si aggiunge nel 2017 anche l'iperammortamento per le nove aree che identificano Industria 4.0. Quindi complessivamente, certo, per le imprese gli anni del governo Renzi non sono andate male, e questo bisogna essere sinceri. Con la legge di bilancio 2017, con la manovrina, cambia il passo, perché si dà una stretta ad alcune di queste misure, a cominciare dall'ACE, che è una misura per l'incentivo fiscale alla patrimonializzazione e capitalizzazione delle imprese, che è entrata nel nostro ordinamento con il governo Monti, e ci occuperemo di questo, vedrete adesso tra pochi secondi perché. E poi perché il prelievo sui giochi da una parte, la limatura di altri incentivi dall'altra, l'estensione del tutto abnorme dello split payment, per cui non si può andare in compensazione fiscale con l'IVA, perché sparisce l'IVA dalla fattura e dai pagamenti per i fornitori non solo più della pubblica amministrazione, non solo di tutte le imprese pubbliche, ma anche per i fornitori delle 40 maggiori società quotate in borsa. Quindi è una misura che avrà un impatto nell'anno prossimo di mancata compensazione breve per le imprese di liquidità disponibile tra i 12 e i 15 miliardi al mese. Quindi insomma cambia il registro, care imprese avete avuto molto, adesso bisogna rischierarsi a sinistra in vista della prossima legge di bilancio e per reperire le risorse per la correzione del deficit di quest'anno. Questa era la cornice generale nella quale io stesso due sabati fa con i compari dei Conti da Belva abbiamo criticato anche la stretta sull'ACE, dicendo ma come, una delle classici difetti del sistema di imprese è il fatto della presenza di microimprese poco patrimonializzate, e adesso si restringe l'ACE perché con il decreto legge si modifica l'orizzonte temporale della spalmabilità dell'incentivo, che da 7 anni scende a 5, e era possibile farlo dai bilanci e dalle capitalizzazioni avvenute dal 2011 in avanti, quindi questo diventa l'ultimo anno nel quale concentrare gli effetti dell'incentivo fiscale, e quindi salta anche il tetto annuale che c'era per ogni impresa di possibile incentivo sugli ammortamenti. E noi abbiamo molto criticato, dicendo questa è una misura per far cassa, erano 300 milioni e 600 dall'anno prossimo, però anzi, meno di 300, poco più di 200 milioni quest'anno e 600 milioni l'anno prossimo, però si fa cassa colpendo una debolezza delle imprese che invece giustamente era stata identificata come debolezza da superare. Se non che tutti quanti noi giornalisti A, B, tutti coloro che hanno fatto le audizioni in Parlamento, quindi l'insieme di tutte le categorie, datoriali, sindacati, l'ABI, la Banca d'Italia, eccetera, a tutti era sfuggito che l'effetto di questa norma è, per così dire, paradossale, o almeno apparentemente paradossale. Ed ecco di che cosa parliamo oggi. Perché nel ridurre il numero di anni in cui spalmare l'incentivo a bilancio, e quindi nel far saltare il tetto annuale, succede che chi si è capitalizzato in più in questi anni dal 2011 in poi, ovviamente, soprattutto dal 2014 in avanti, le banche, soprattutto da allora, perché prima erano aumenti di capitale ibrido, poi è cambiata la vigilanza, è arrivata la BCE e sono arrivati gli aumenti di capitale a raffica, perché le banche italiane erano quelle più a rischio per NPL, per bassa patrimonializzazione e così via. E quindi quando hanno iniziato ad arrivare gli esercizi dell'asset quality review della vigilanza europea, ecco gli aumenti di capitale a raffica. Sono aumenti di capitale per molti miliardi, quindi grandissimi incentivi fiscali. L'effetto della norma è concentrare i benefici tutto sul conto economico di quest'anno, ed ecco quindi la sorpresa. Cioè la misura che bastona le imprese è invece... titolo della stampa che insieme a Libero si è accorto di questa cosa e ha tirato fuori lo scoop ieri, domenica. Titolo della stampa, pagina 7, il regalo del governo alle banche in manovra a sorpresa gli sconti fiscali. E sono, come ascolterete, signori sconti fiscali che intervengono proprio su quelle banche in cui la trattativa con la BCE per l'intervento dello Stato ha preso molto tempo, troppo tempo, che nel frattempo continuano a perdere clienti, MPS non più i depositi, ma ne ha persi un mucchio, perché nella trimestrale dice che i depositi hanno tornato a segnare il segno più, le venete e così via. Ma nessuno se ne era reso conto. Siamo in presenza di un legislatore che non capisce gli effetti di quello che fa? A. B. Siamo in presenza, malgrado tutti questi anni di crisi, del fatto che tutti gli interlocutori, a cominciare dalla stampa, non capiscono gli effetti veri delle norme? Sicuramente sì. C. Ma lo sapevano e non ce l'hanno detto, perché in realtà così lo Stato, per così dire, ci guadagna, dovrà mettere meno soldi? D. Cosa diranno la BCE e la Vigilanza Europea a questo tipo di norma? E. Di fronte alla polemica che è esplosa ieri e oggi, nel decreto resta così com'è? O a questo punto si corregge? E qui finisce la mia introduzione, per ricordarvi che sul giornale di oggi trovate che alcune parti politiche di fronte allo scoop hanno già chiesto di cambiare questo regalo, tra virgolette, alle banche, dicendo uno scandalo a favore dei banchieri. Su questo si sono pronunciate sia Forza Italia che i 5 Stelle. E devo aggiungere anche, per correttezza e per completezza dell'informazione, che lo stesso Abi, cioè il direttore generale dell'associazione bancaria, che potevamo anche sospettare di essere stata parte dietro le quinte di una trattativa per ottenere questo sconto alle banche in grande difficoltà, invece il suo direttore generale Giovanni Sabatini oggi, sempre sulla stampa, pagina 11, ha lasciato un'intervista dicendo no, la legge è sbagliata, alza la tassa sulle imprese e ora deve essere cambiata. Ok, questa è la cosa di cui ci occupiamo oggi, per capire A. come funziona, B. come è nata, C. se viene accettata dall'Europa, D. ma lo Stato ci guadagna o ci perde? Ecco, intanto chiediamo a chi ieri ha tirato fuori, con un collega della stampa, insieme a Gianluca Paolucci, ha tirato fuori questa notizia sulla stampa, poi c'è anche un articolo di Libero, cioè Alessandro Barbera, che saluto e ringrazio per essersi reso disponibile, di spiegarci come se ne sono resi conto e qual è la loro stima di questo effetto, di questo regalo. Poi abbiamo un secondo ospite che tecnicamente ci intrattiene sul fatto se, secondo la sua opinione, per i regolatori europei questo miglioramento inaspettato del conto economico quest'anno delle banche, su cui siamo in attesa di capire come e quando funziona l'intervento dello Stato, se è autorizzato, l'essere Unione Europea dirà sì oppure dirà ma che scherzate, scherzate, vedremo. Ma intanto Alessandro Barbera, grazie di essere con noi, come cavolo avete fatto lo scoop? Le fonti come se sono sempre riservate, quindi non ve lo posso va svelare. Benissimo. Non ve lo posso svelare. Quello che posso dirti è che la norma era passata sotto silenzio, sembra che persino nel governo qualcuno non fosse del tutto consapevole. Perché Pierluigi Baretta, sottosegretario, ha detto no, non avevamo, non lo sapeva. Cioè, lui garantisce che la discussione al Tesoro era stata esclusivamente su quanto fosse utile o fosse necessario risparmiare per raggiungere gli obiettivi della manovra. Perché in effetti il taglio di questa agevolazione produrrebbe nel corso di quest'anno un sconto, cioè un risparmio per lo Stato di circa 300 milioni, e l'anno prossimo circa 600. Peccato che questo effetto nemmeno troppo perverso che si produce per le banche in realtà produce tutt'altro che risparmi. Poi adesso vedremo se alla fine della fiera le risparmi. Però voi collega Libero no, però tutti quanti noi siamo stati cretini, perché se c'è una misura che diminuisce l'orizzonte temporale della spammabilità degli incentivi fiscali per chi ha capitalizzato, doveva venirci in mente, cari colleghi, compresi quelli del Sole, ma tutti i giornali, doveva venirci in mente che chi aveva capitalizzato di più erano le banche in difficoltà, e invece nessuno di noi ci ha pensato. Quindi comunque, a onor del vero, rispondere in parte alla tua domanda, bastava leggere con attenzione il comunicato della trimestrale presentato al Monte dei Paschi il venerdì, nel quale c'è scritto chiaramente e candidamente che per effetto della rimodulazione degli sconti per la capitalizzazione delle imprese, e tenuto conto del fatto che l'aumento della base imponibile produce l'emergere, in qualche modo aumenta i crediti fiscali che al momento sono fuori bilancio, cosiddette DTA, produce sul bilancio del Monte dei Paschi un miglioramento di quasi 900 milioni di euro. E hai detto niente! 900 milioni di euro. Se questo è o non è una fregatura, e quindi ed è un regalo in senso Aspetta, proprio... visto che siamo qua e visto che voi lo avete quantificato già ieri, aggiungiamo anche la stima dei crediti fiscali per Popolare di Vicenza e Veneto Banca, le altre due banche su cui siamo con la spada sospesa, perché è stato preso altro tempo per l'ok dell'Unione Europea. Alla... Diciamo che, ecco, va detto questo, siccome questo meccanismo premia le banche che hanno avuto forti ricapitalizzazioni e danno ingenti crediti fiscali in pancia, anche nel caso del due Venete, guarda caso, si produce uno sconto nell'ordine di qualche centinaio di milioni. Nel caso del due Venete è un po' più complicato fare i calcoli, perché naturalmente, mentre MPS l'aveva scritto nel suo comunicato, non sappiamo qual è l'esatto ammontare dei crediti fiscali che possono emergere da fuori, ripeto, fuori del bilancio, che non stanno in bilancio, stanno fuori bilancio per ragioni tecnico-contabili sulle quali non sto a deviarvi, che stanno nel bilancio di Veneto e Vicenza. Diciamo che però sappiamo che la Popolare di Vicenza ha più di mezzo miliardo di crediti fiscali, bisogna vedere quanti recuperabili con la logica della nuova norma, e Veneto Banca un po' meno di 200 milioni. Diciamo tra i 6 e 800 milioni di euro. Esatto, però anche lì non poco. C'è un aspetto, diciamo, in qualche modo divertente in questa vicenda, apparentemente molto tecnica e per iniziati. Io stesso, diciamo, ho dovuto un po' produrmi in questioni tecnico-contabili non da tutti. Ed è il fatto che, guarda caso, proprio nei confronti di MPS, delle due banche venete, c'erano alcune difficoltà che questa norma sembra in qualche modo risolvere. Ovvero sia per l'una che per le altre due, la Banca Centrale Europea avrebbe nelle ultime settimane, nel lungo e complicato negoziato per il salvataggio di queste due banche, chiesto al governo di innalzare sostanzialmente la quantità di soldi pubblici necessari alla ricapitalizzazione statale. Nel caso del Monte dei Paschi, per l'emergere di ulteriori, diciamo, perdite, naturalmente più passa il tempo più aumentano le perdite di queste di banche. Nel caso delle due venete, perché sostanzialmente il conteggio sulla base delle regole di quello che sarebbe stato l'aiuto pubblico imporrebbe, a meno di non trovare un socio privato disponibile a investire, l'applicazione del bail-in, cioè una norma sostanzialmente che del burden sharing, esattamente. In questo caso si andrebbe proprio al bail-in, cioè al taglio netto di azionisti e obbligazionisti delle due banche. Quindi, per farla breve, qual è l'aspetto curioso? È che questa norma serve esattamente, senza apparentemente incorrere a rischi di essere tacciati di aiuti di Stato, perché la norma è universale, di una norma che serve esattamente ad aumentare in qualche modo il patrimonio di queste due banche, e quindi a non imporre al governo di tirare fuori più soldi per il loro salvataggio, e quindi in qualche modo a togliere il castagno al fuoco al governo, che nel frattempo stava cercando di trovare con la Banca Centrale Europea la strada giusta per non aumentare il costo per lo Stato e allo stesso tempo riuscire a fermare queste banche. Allora, l'obiezione mia è che va bene se con gli incentivi fiscali che bastano alle imprese, ma dare una mano a queste banche si risolve fiscalmente, si diminuisce fiscalmente l'apporto diretto dello Stato nel suo ingresso a Siena e alle due venete. Da una parte per me non fa differenza, perché tanto l'incentivo fiscale a questi viene dalla fiscalità generale, cioè dalle tasche dei contribuenti, l'intervento diretto di ripatrimonializzazione dello Stato viene dalle tasche generali dei contribuenti, è chiaro che l'effetto è uguale, per così dire. Ma agli occhi del regolatore europeo, siccome per la misura del no aiuti di Stato, per la congruità rispetto alla patrimonializzazione, non è la stessa cosa, in teoria, poi vedremo col secondo ospite se è vero o meno, è ovvio comunque che in realtà lo Stato ci guadagna da questo punto di vista. Mettiamola così, sembra essere una sofisticata operazione di efficientamento fiscale. Sì, appunto, appunto. Fatta con una norma apparentemente non ad hoc, ma di fatto ad hoc. Da un punto di vista, diciamo, pratico, si potrebbe dire che bisognerebbe in qualche modo applaudire la sofisticatezza di chi ha... Ma... Se esiste una manina che ha inventato questa norma, bisognerebbe applaudire la sofisticatezza della soluzione. Il problema è che naturalmente siamo all'ennesimo caso, da un lato, nella modifica dei requisiti dell'ACE, della violazione delle, come dire, del patto con il contribuente. Vabbè, ma è ovvio, è retroattivo come sempre in materia fiscale. Continuamente lo Stato decide che cambia le carte in tavola con le imprese, quando le imprese spendono e passano mesi e mesi a fare pianificare i propri bilanci, a pianificare le proprie... Ciao statuto del contribuente, ma questa è la norma in Italia. L'altro aspetto è che naturalmente questa norma, se è vero che avvantaggia le due banche, che comunque lo Stato salverebbe, che voglio... scommettere quale forza politica direbbe che andrebbero fatte fallire, è chiaro che questa norma in qualche modo aiuta lo Stato a spendere di meno per il salvataggio di queste due banche, se così vogliamo dire, e dall'altra però svantaggia le banche sane. Oh, bravo. Le banche più sane, questa norma è penalizzante, capito, cioè, Mara Meo, bravo. E da San Paolo, che ha invece i bilanci in ordine, paga semplicemente il prezzo della norma sulla cosiddetta... Plaudo, e siccome io non penso di dover credere davvero che non lo sapessero, perché non prendiamoci per i fondelli, se non lo sapevano siamo nelle mani di imbecilli, quindi come prima ipotesi non mi sembra di poterla sposare, io li faccio non imbecilli, diciamo che probabilmente pensavano che divenisse chiaro a decreto approvato, adesso voglio vedere cosa succede. Sta di fatto che io do atto all'ABI che ha chiesto di modificare la norma. Io ringrazio Alessandro Barbera, perché la stampa e Libero ci hanno spiegato una cosa che nessuno incredibilmente aveva capito, invece era sotto i nostri occhi, quindi io mi batto il petto. Dall'altra voglio capire adesso cosa succede, perché il disincentivo a essere virtuosi ancora una volta domina, grazie oltretutto a un'opacità pubblica in questa norma, che se non è opacità è segno di imbecillità. E io sono brutale nei miei giudizi, ma questa è la mia alternativa, che non è quella di Alessandro Barbera, di chi ha scritto, che sono tutti molto più moderati e istituzionali di me. Io sono la pecora nera e quindi vado al dunque di quello che nel mio pensiero ipersemplificato appare di questa roba che bastona le imprese e premia le banche, che invece sono state le meno virtuose di tutte. Grazie Alessandro Barbera, noi torniamo tra un minuto per chiederci, ma a questo punto l'Europa dirà sì a questo gioco di prestigio fiscale che viola lo statuto del contribuente ed è un ceffone a chi è stato virtuoso, oppure dirà no? Cosa ci dicono i precedenti? Tra un minuto. La versione di Oscar. Allora, torniamo in diretta dopo che vi abbiamo spiegato questa cosa che nessuno aveva capito, l'effetto della stretta sull'ACE che bastona la capitalizzazione delle imprese, meno incentivi e invece una mano santa per Siena e le due venete in cui deve intervenire lo Stato. Abbiamo tentato di spiegarlo, speriamo che tecnicamente abbiate più o meno capito, lo so, la materia è un po' complicata, ma la domanda diventa: l'Unione Europea, la BCE e la Direzione Generale alla Concorrenza di Bruxelles, di fronte a questo colpetto che avviene per in materia fiscale, ma i cui effetti sono di ripatrimonializzare MPS, gli effetti sono rilevanti, 900 milioni quasi per Siena, centinaia di milioni per le due venete a testa, dirà sì o dirà no? Che cosa possiamo dire da parte di chi segue le operazioni bancarie per ciascuno di questi in questi anni pre e post BRRD, cioè la direttiva europea per la risoluzione delle banche? Gianluca Codagnone, uno di coloro a cui ci rivolgiamo sistematicamente, almeno io nelle mie trasmissioni, managing director di Fidentiis. Lei l'aveva capito che questo era l'effetto dell'ACE, Codagnone? Ciao Oscar. Allora, da quando abbiamo visto questa cosa, stamattina ci siamo messi un po' al lavoro, abbiamo sentito i nostri fiscalisti, anche un po' di banche, e devo dire che alla fine la conclusione è questa, che il governo può avere introdotto questa norma e può aver avuto questo effetto, magari anche non sappiamo se voluto o non voluto, ma quello lo lascio giudicare a te. Sì, appunto, sono cattivo abbastanza, esatto. Esatto. Una cosa però è certa, che questa ripresa, ripresa di valore di queste, diciamo, attività cosiddette di deferred tax asset, cioè tasse, diciamo che tasse, che benefici fiscali, sì, secondo il nostro parere non passerà nel core equity tier 1 delle banche. Quindi Siena non ci guadagna l'1,5%, diciamo così. Adesso purtroppo è una cosa un po' tecnica, però diciamo che nel phase in del core equity tier 1, cioè nel calcolare il core equity tier 1, l'80% di quel beneficio fiscale non passerà. Ma ci sono precedenti? Allora, questo fa un po' parte di tutta la discussione sulle deferred tax assets che l'ECB ha avviato con tutte le banche europee, esatto, per cui ha fatto, devo dire, un po' di termo un fascio, secondo me sbagliando. Perché in effetti, diciamo, le banche italiane purtroppo pativano una asimmetria nei tempi di recupero fiscale delle perdite che mettevano a bilancio, che negli altri paesi europei non c'era. Esatto, diciamo che l'ECB ha fatto un po' di termo un fascio, per cui... faccio un esempio rapidissimo, la taglio breve. Sì. In Italia la deducibilità delle perdite per le banche era limitata, sì, in particolare quando si accantonavano delle perdite perché dei crediti non tornavano indietro, la deducibilità era limitata, diciamo, in svariati periodi è stata limitata, però diciamo nell'ultimo periodo limitata a 50 basis point di tutti, sì, di tutto il monte prestiti. Se le banche perdevano di più, dovevano pagare le tasse come se quelle perdite non esistessero e recuperarsele in seguito. Quelle perdite potevano venire recuperate solo se superavano il cosiddetto test di vitalità, cioè se le banche avessero avuto utili futuri tali per cui quelle perdite potevano venire utilizzate, allora quelle perdite si potevano utilizzare, altrimenti li dovevi proprio cancellare. Devi cancellare, quindi accantonare patrimonio e non poterne dedurre fiscalmente. Queste perdite, che secondo me sono abbastanza legittime come perdite pregresse da tenere, venivano accumulate altri tipi di perdite fiscali o, diciamo, detassazioni, tipo quelle che le banche spagnole hanno usato quando le banche spagnole compravano banche all'estero, potevano permettersi l'iscrizione di un goodwill, diciamo così, che veniva regolarmente ammortizzato in esenzione di imposte. Ora, hanno fatto tutto un pateracchio su queste perdite fiscali, trattando quelle che noi chiamiamo deferred tax credit, cioè quelle perdite che venivano, diciamo, sottoposte a tassazione perché c'era un limite italiano a 50 basis point, esatto, di tutto il monte prestiti, venivano accumulate altre perdite. Secondo me questo è sbagliato, c'è una norma che adesso italiana che ha corretto questa cosa qui, che fa riprendere tutte queste tipi di perdite specifiche. Però alla luce di questo forse si può sperare in una valutazione un po' più generosa, allora, ma non integrale, o no? Allora Oscar, noi abbiamo parlato con i nostri i consulenti, poi il decreto è stato approvato da una Camera, lo abbiamo guardato meglio che potevamo. Una cosa è sicura, che hanno cambiato la data da cui si calcola, sì, è passata dal 2010 al 2012, questo è sicuro, quindi sì, hanno ridotto a 5 anni, esatto, il periodo di calcolo della base imponibile ACE. Dopodiché non hanno specificato se una banca che è partita nel 2013, diciamo con 10 miliardi di capitale, ne ha persi 8 e ne ha reintegrati 8, quindi è ritornata semplicemente dove era, non hanno specificato se quella sia base imponibile ACE o no, ma pare di sì. Quindi se una banca è ritornata semplicemente dove era prima, quegli 8 miliardi, perché ha reintegrato il capitale dopo le perdite, quegli 8 miliardi sono base imponibile ACE, che è una cosa che non suona tanto bene logica. Allora, scusami, io a questo punto spero che gli assessori abbiano capito. Se qualcuno lo ha pensato, forse ha sottovalutato che in sede di BCE, per una serie di problemi molto complessi, non è scontato. E quindi questo rende ancora più grave la bastonata alle imprese, la retroattività, ecc.